ci sembran veri e tutto ci parla d'amore. Se credi chissà che un giorno non giunga la felicità, non disperare del presente, ma credi fermamente e il sogno realtà diverrà. Fermamente è il sogno